Capitolo 6. Ho mosso il passo verso il cimitero stasera, scrisse Anna a Gilbert dopo essere rientrata. Trovo che muovere il passo sia una bella espressione e cerco di infilarla dove è possibile. Sembra strano dire che mi è piaciuto visitare il cimitero mai così. Le storie della signorina Curtlow erano molto divertenti, anche se sotto sotto alcune erano macabre. Nella vita, commedia e tragedia sono spesso unite, caro Gilbert. Però mia ossessione è il ricordo dei due che vissero insieme 50 anni continuando a odiarsi. Non riesco a crederci. Qualcuno ha detto che l'odio è solo amore che ha sbagliato strada. Sono certa che al di là dell'odio si amavano. Come io ho amato te in tutti quegli anni in cui credevo di odiarti. Con la morte se ne saranno resi conto. Come sono contenta io di averlo scoperto in vita. E ho anche scoperto che ci sono dei Pringle come si deve, morti però. Ieri sera, quando scesi a bere prima di andare a dormire, trovai zia Kate che si lavava la faccia con il siero di latte nella dispensa. Mi chiese di non dirlo a Chetty perché l'avrebbe disapprovato. Promisi di non farlo. Elizabeth continua a venire a prendere il latte anche se la donna è praticamente guarita dalla bronchite. Mi chiedo perché glielo permettano, dato che l'anziana signora Campbell nasce Pringle. Sabato scorso Elizabeth, mi sembra di ricordare che fosse Betty quella sera, rientrò in casa cantando e sentì perfettamente la donna che sulla soglia le diceva: «La festività domenicale è troppo vicina per poter cantare canzoni del genere». Sono certa che se potesse la donna impedirebbe a Elizabeth di cantare in ogni giorno della settimana. Elizabeth indossava un abito nuovo color rubino quella sera. La vestono davvero molto bene. E disse in tono malinconico: «Stasera, quando l'ho messo, mi sono trovata carina, signorina Shirley, e avrei voluto che mio padre potesse vedermi. Naturalmente mi vedrà nel domani, ma a volte sembra tanto lontano». Vorrei che si potesse far andare il tempo un po' più in fretta, signorina Shirley. Ora, tesoro, devo risolvere problemi di geometria. I problemi di geometria hanno preso il posto di quelli che Rebecca chiama i miei sforzi letterari. Lo spettro sempre presente sul mio cammino giornaliero è il timore che in classe salti fuori qualche problema che non so fare, che direbbero i Pringle allora. Indovinare, prego. Intanto, se vuoi bene a me e alla razza dei gatti, prega per un povero gattone disperato e maltrattato. L'altro giorno un topo ha attraversato la strada di Rebecca Dew nella dispensa e lei è montata su tutte le furie. Quel gatto non fa altro che mangiare e dormire. Qui i topi prosperano. Questa è l'ultima goccia. Così lo spedisce da Erode e Pilato. Lo scaccia dai suoi cuscini preferiti e, lo so perché l'ho colta sul fatto, gli dà il ben servito con il piede quando lo mette fuori. Capitolo 7. Un venerdì sera, alla fine di una mite e soleggiata giornata di dicembre, Anna andò a cena a Lowvale. Wilfred Bryce viveva a Lowvale con uno zio e una zia e le aveva chiesto timidamente se dopo la scuola voleva andare con lui alla cena di beneficenza organizzata dalla chiesa e fermarsi ospite il sabato a casa sua. Anna accettò, sperando di convincere lo zio del ragazzo a lasciarlo continuare il liceo. Wilfred aveva preannunciato che non sarebbe rientrato a scuola dopo Capodanno. Era intelligente, ambizioso e Anna lo seguiva con particolare interesse. La prospettiva di quella visita non la esaltava, ma era contenta di fare un piacere a Wilfred. Lo zio e la zia erano una coppia di gente strana e rude. Sabato mattina il cielo era coperto, c'era un gran vento e nevicava. Anna si chiese in quale modo mai avrebbe passato la giornata. Era stanca e insonnolita per essere stata alzata fino a tardi. Wilfred stava aiutando a Trash e non c'era un solo libro in vista. Allora pensò al malconcio baule da marinaio che aveva visto nel ripostiglio del piano superiore e ricordò la richiesta della signora Stanton. La signora Stanton stava scrivendo una storia dell'isola e aveva chiesto ad Anna se conosceva o sapeva dove trovare vecchi diari o documenti che potessero avere un qualche interesse. Naturalmente i Pringle ne hanno un mucchio, aveva detto ad Anna, ma a loro non posso chiederli. Come saprà, tra i Pringle e gli Stanton non è mai corso buon sangue. Sfortunatamente non posso chiederli nemmeno io, aveva detto Anna. Oh, non intendevo questo. Le chiedo soltanto di tenere gli occhi aperti quando va in visita nelle case e se scopre o sente parlare di vecchi diari o mappe o cose del genere, di cercare di ottenerli in prestito. Lei non ha idea delle cose interessanti che ho trovato nei vecchi diari. Pezzetti di vita vera che fanno rivivere i tempi dei pionieri. Voglio cose di questo tipo per il mio libro, oltre alle statistiche e alle tavole genealogiche. Anna chiese alla signora Bryce se possedesse cose di questo genere. La signora Bryce scosse la testa. No, che io sappia, però, animandosi, su c'è la cassa del vecchio zio Andy, magari lì c'è qualcosa. Navigava con il capitano Abraham Pringle. Vado a chiedere a Duncan se possiamo metterci le mani. Duncan mandò a dire che mettesse le mani su quello che voleva e che se trovava delle cartacce le tenesse pure. Intanto aveva intenzione di bruciare tutto quel vecchiume e tenere il baule come scatola degli attrezzi. Anna ci mise le mani, ma trovò soltanto un vecchio diario di bordo ingiallito che Andy Bryce teneva quando era in mare. Anna trascorse la brutta mattinata leggendolo e divertendosi un mondo. Andy conosceva un mucchio di racconti marinareschi e aveva compiuto molti viaggi con il capitano Abraham Pringle, che con ogni evidenza ammirava immensamente. Il diario era pieno di tributi sgrammaticati al coraggio e all'intraprendenza del capitano, specialmente per l'ardua impresa del doppiaggio di Capo Horn. Ma tale ammirazione non era estesa a Myron, fratello di Abraham, anche lui capitano, ma di un'altra nave. Da Myron Pringle, stasera, la moglie l'ha fatto imbestialire, lui è saltato su e le ha gettato un bicchiere d'acqua in faccia. Myron è a casa. La nave è bruciata. E sono saliti sulle lance, sono quasi morti di fame. Alla fine si sono mangiati Jonas Selkirk che si era sparato un colpo. Hanno continuato a mangiarlo finché non li ha raccolti la Mary G. Me l'ha detto Myron in persona. Gli sembrava una cosa divertente. Anna rabbrividì davanti all'ultima frase, che appariva ancora più orripilante per il modo distaccato con cui Andy riportava i terribili fatti. Poi lasciò libero corso ai suoi pensieri. In quel diario non c'era nulla che potesse tornare utile alla signora Stanton, ma non si sarebbe rivelato interessante per le signorine Sarah e Helen, visto che nominava frequentemente il loro adorato padre? E se gliel'avesse mandato? Duncan Bryce aveva detto di farne pure quel che voleva. No, non l'avrebbe fatto. Perché mai doveva cercare di compiacere o di alimentare il loro assurdo orgoglio già tanto sviluppato? Si erano proposte di scacciarla dalla scuola e ci stavano riuscendo. Loro e il loro clan l'avevano sconfitta. Wilfred la riaccompagnò a Windy Willows quella sera. Erano tutti e due felici. Anna aveva convinto Duncan Bryce a lasciar finire a Wilfred l'anno al liceo. Poi frequenterò la Queen's Academy per un anno e dopo insegnerò e potrò studiare davvero, disse Wilfred. Come potrò mai ripagarla, signorina Shirley? Lo zio non avrebbe dato ascolto a nessun altro, ma lei gli va a genio. Quando eravamo nel granaio, ha detto: Le rosse hanno sempre fatto di me quello che volevano. Ma non credo che sia stato merito dei capelli, anche se sono tanto belli. Signorina Shirley, è stato proprio merito suo. Quella notte Anna si svegliò alle 2 e decise di mandare a Maplehurst il diario di Andy Bryce. Dopotutto provava una certa simpatia per le due vecchiette e avevano ben pochi motivi di conforto nella loro vita, solo l'orgoglio per il padre morto. Alle 3 si svegliò di nuovo e ci ripensò. Altro che solo l'idea che la signorina Sarah fingeva di essere sorda. Alle 4 era di nuovo preda dei dubbi. Infine decise di mandarglielo. Non si sarebbe mostrata meschina. Anna detestava mostrarsi meschina come i Pai. Una volta sistemata la faccenda, Anna tornò a dormire, pensando che era incantevole svegliarsi la notte, sentire i primi venti gelidi dell'inverno soffiare attorno alla torretta, rannicchiarsi tra le coperte e abbandonarsi ai sogni. Il lunedì mattina fasciò con cura il vecchio diario e lo mandò alla signorina Sera con un biglietto. Cara signorina Pringle, forse questo vecchio diario potrebbe interessarla. Me l'ha dato il signor Bryce per la signora Stanton, che sta scrivendo una storia della contea, ma credo che possa fare più piacere a lei. Cordiali saluti, Anna Shirley. È un biglietto tremendamente formale, pensò Anna, ma non riesco a scrivere in modo naturale ai Pringle e non sarei affatto sorpresa se me lo restituissero altezzosamente. Il cielo sereno della serata invernale portò a Rebecca Dew la sorpresa più grande della sua vita. La carrozza di Maplehurst avanzò sulla neve fresca di Spooks Lane e si fermò al cancello principale. Ne scese la signorina Ellen e poi, con enorme stupore di tutti, la signorina Sarah, che da 10 anni non metteva piede fuori da Maplehurst. Arrivano al portone d'ingresso! Ansimò Rebecca Dew, terrorizzata. Perché i Pringle dovrebbero entrare? Forse dalla porta di servizio? Chiese zia Kate. Certo che no, ma il portone si blocca, disse Rebecca in tono tragico. Si blocca proprio e non è più stato aperto dopo le pulizie di primavera. Ah, questa è l'ultima goccia. Il portone d'ingresso fece resistenza, ma Rebecca Dew riuscì a spalancarlo con la forza della disperazione e introdusse le signorine di Maplehurst nel salotto. Per fortuna, oggi ci avevamo acceso il fuoco, pensò. Spero solo che quel gatto non abbia lasciato i peli sul sofà. Se mai Sarah Pringle si trovasse sul vestito dei peli di gatto presi nel nostro salotto, oh! Rebecca Dew non osò immaginare le conseguenze. Salì nella camera della torretta a chiamare Anna, poiché la signorina Sarah aveva chiesto della signorina Shirley, e si ritirò in cucina, bruciando dalla curiosità di sapere perché mai le sorelle Pringle fossero venute a far visita alla signorina Shirley. Se tanto mi dà tanto, ci sono guai grossi in vista, disse cupamente Rebecca Dew. Anna ascese con trepidazione. Erano venute per restituire il diario con gelido atteggiamento di sufficienza? Fu la piccola, rugosa, inflessibile signorina Sarah che si alzò e parlò senza preamboli all'arrivo di Anna. Siamo venute ad arrenderci, disse in tono amaro. Non possiamo fare altro. Naturalmente lei lo sapeva, quando ha letto quell'infamante appunto sul povero zio Myron. Non era vero, impossibile che fosse vero. Lo zio Myron voleva solo provocare la credulità di Andy Bryce. Andy se le beveva tutte, ma quelli che non fanno parte della nostra famiglia saranno ben contenti di crederci. Lei sapeva che saremmo diventate lo zimbello della città e anche peggio. Oh, lei è molto acuta, ne conveniamo. Jen si scuserà e si comporterà come si deve per l'avvenire. Io, Sarah Pringle, ne sono garante. Se solo lei prometterà di non dirlo alla signora Stanton né a nessun altro, faremo quel che lei vorrà, qualunque cosa. La signorina Sarah torceva il fazzoletto di pizzo tra le piccole mani percorse da vene azzurre. Stava letteralmente tremando. Anna la fissò esterrefatta. Povere creature, l'avevano presa per una ricattatrice. Oh, mi avete completamente fraintesa, esclamò prendendo tra le sue le povere manine della signorina Sera. Io non credevo che voi pensaste che io volessi. Oh, pensavo soltanto che vi avrebbe fatto piacere avere quelle interessanti testimonianze sull'uomo eccezionale che fu vostro padre. Non intendevo divulgare quell'altro piccolo episodio, non gli ho dato la minima importanza e non gliela darò mai. Ci fu un attimo di silenzio. Poi la signorina Sera si sottrasse con garbo alla stretta delle mani di Anna, portò il fazzoletto agli occhi e si sedette. Il bel volto rugoso era soffuso di rossore. L'abbiamo davvero fraintesa, mia cara, siamo state odiose con lei. Vuole perdonarci? Mezz'ora dopo, una mezz'ora che tenne sulle spine la povera Rebecca Dew, le signorine Pringle andarono via. Era stata una mezz'ora di chiacchiere amichevoli e commenti sulle parti non infiammabili del diario di Andy. Quando furono sulla porta, la signorina Sarah, che non aveva mostrato alcun problema di udito durante la visita, si voltò e prese dalla borsetta a rete un foglietto coperto da una bella calligrafia angolosa. Dimenticavo, tempo fa ho promesso alla signora McLean la nostra ricetta della torta lievitata. Non le dispiace consegnargliela? E le dica che il processo di trasudazione è molto importante, direi indispensabile. Ellen, la cuffia ti è scesa leggermente sull'orecchio. È meglio che la sistemi prima di uscire. Eravamo un po' agitate quando ci siamo vestite. Anna disse alle vedove e a Rebecca Dew, che aveva dato il vecchio diario di Andy Bryce alle signorine di Maplehurst e che loro erano venute a ringraziarla. Dovettero accontentarsi di questa spiegazione, anche se Rebecca Dew intuiva che dietro doveva esserci ben altro. Il sentimento di gratitudine per un vecchio diario ingiallito e macchiato di tabacco non avrebbe mai indotto Sarah Pringle a presentarsi al portone d'ingresso di Windy Willows. La signorina Shirley era astuta, molto astuta. D'ora in poi aprirò il portone una volta al giorno, giurò Rebecca Dew, tanto per tenerlo in esercizio. Poco ci mancava che cadessi lunga e distesa quando ha ceduto. Beh, però abbiamo la ricetta per la torta lievitata, 36 uova. Se ci liberassimo di quel gatto e tenessimo delle galline, potremmo permettercela una volta all'anno. Con ciò, Rebecca Dew si recò a grandi passi in cucina e sfidò il destino dando latte al gatto, pur sapendo che voleva il fegato. La guerra Shirley Pringle era finita. Nessuno al di fuori del clan seppe mai perché, ma la gente di Summerside capì che la signorina Shirley era riuscita, da sola e chissà come, a sconfiggere tutto il clan. Da quel momento i Pringle la portarono in palmo di mano. Il giorno dopo Jen andò a scuola e chiese umilmente scusa ad Anna davanti a tutta la classe. In seguito si mostrò un'alunna modello e tutti i Pringle della scuola la imitarono. Quanto ai Pringle adulti, la loro ostilità sparì come nebbia al sole. Non ci furono più lamentele riguardo al regime o ai compiti per casa. Finite le offese velate, caratteristica della razza. Facevano a gara per mostrarsi cortesi con Anna. Non c'era ballo o pattinaggio in compagnia che non prevedesse la sua presenza. Anche se il diario fatale era stato dato alle fiamme dalla stessa Sarah Pringle, la signorina Shirley lo portava impresso nella memoria e, volendo, avrebbe potuto dirne delle belle. Mai e poi mai quella ficcanaso della Stanton doveva sapere che il capitano Myron Pringle aveva praticato il cannibalismo.